queste parole sono scritte da chi non ha visto più il sole per amore di lei. Io le ho trovate in un campo di fiori, sopra una pietra c'era scritto così: ho difeso il mio amore. Lei era bella, era tutto per lui. Poi venne un altro, gliela strappa di mano. Cosa poi sia successo? Lo capite anche voi. Ho difeso il mio amore, perdono. Ho difeso